in casa sua una cibiti nascosto e lui muto muto pazzia parlava di una radio privata e poi c'è parte con professanti Lori. No, Lori. Lori, non Lori, Lori era. Vabbè, è quello di provare. Come va Giovanni Caricoso, mi era un amante, era una notte, capito? Con capirue, loro capirue, parlando. Ma io sono andato a provare, e se si pigiava lì. Guarda, a Campanetta c'erano tre poveri ragazzi che modulavano, vicino ai loro. C'erano tre ragazze buone, c'erano lì a Campanetta, uno addirittura con la passata saliana a bowling. Poi modulava anche una ragazza, modulava la cosa, la Monte Oro, era la figlia di, che mi sembra si è sposata. Allora andrì, capitano, adesso mi ricordo il nome attivo, Luciana. Io ragazzi sono stato fatto parecchie, io addirittura con cose, con Pietro Automagico l'avevo fatto fare a una alla selezione per Miss Italia ed è arrivata sino all'ultimo. Capito, era arrivata a terza, non mi conoscevo perché lei nel giornale aveva dichiarato che gli hanno fatto delle avance, se lei dice voleva essere, cioè voleva diventare bisipagua, doveva lanciare. Capito, la lì non è partita, è arrivata a terza mi sembra, una cosa del genere. E quella cominciava il baracchino. Di bimbi, poi che poi non è che mi ricordo tutto adesso, però Cibira, dove c'è stato parecchio paracchino, sono stati anni anche modulando. C'è una volta che parlava solo dalla metà ora in poi, fino alle 5 del mattino, fino alle 2. Poi c'era la rotta della mattina che parlavano cosa Luna, poi c'era Marina e poi la moglie di Tonino. Thank you. dice la morte proibita, quando va conosciuto due ragazze del monte, dice la Vittoria, che allora non c'era ponte nuovo, c'era questa specie di calore, si è ribaltato, al momento muore l'uomo, cazzo. E poi tu ci sei in fondo che mi rompevi le palle, con gli sguardi hai detto con quei vicini di casa miei, cioè io sai i vicini di casa di chi sto parlando. Vabbè, dai, hai già capito che, mamma mia, quello è una cosa impressionante, quello, ma ormai già sono pavizio tutti e tre. Parecchie, c'era un periodo su 14, ma era fatta pura, e ancora qualche pallavolo con me, e mi sarà dopo 14, sempre pieno, pieno, pieno. Thank you. animali, sono tutti WFF, c'è un canale, ci hanno una frequenza e parlano tutti lì, tutti i 20 cb. Come Alghero, Alghero usa di 43 per dire, perché c'è una volta che parlano solamente l'Alghero, gli altri rimanenti parlano 27. Già non so sì che è così, già conosco Giampaolo, me l'ha detto. Vabbè, loro vanno in quella frequenza sicuramente perché non li rompe la scatola nessuno. Io intanto devi provare il cibo, mi vedi che cosa ho proposto, non mi rimane ancora, non mi ricordo di tutto. E beh, se non ci imparano i vecchi non arrivano manco i nuovi. Beh, ma non c'è vero. Però male, qua siamo in 10, non di più. Sì, già me lo ricordo, io me lo ricordo, non ti preoccupare. C'era, prima di entrare lì a Paracchino a parlare, ci voleva la mia cugina, giù a Ottava. Si chiamava Patatina. Poi l'altra sorella c'aveva la voce tipo luce del mattino, in pratica. E poi c'era stato lo pieno. Che volevano da lì la Ottava. Poi c'era una faccia qui a Ottava che non mi ricordo come diavolo si chiama il nome, eccetera, eccetera. Prima era pieno, pensavo che era pieno di canali. Quando ho fatto io era... c'era un bel niente, vero? Allora se si usavano 23 canali, il primo che ho comprato era cibigliato, io, ma non ricordo ancora. Usavo ancora la macchina attaccata alla finestra, che... con due gemelli, parlavano tutti e due da Ossi. quella lì avevamo dato alla uno dei due gemelli e adesso sta la parrucchiera a Sassari. Mi pare si chiama Lucia, non mi ricordo adesso. E poi c'era un'altra che modulava la Ussi, poi c'era la sorella di Franco De Martis, quello che ci ha mandato scuola amica, che è indicato un lavoro a lui, e lavora alle circostrale. Poi c'è Andrea Maricone che modulava la Ussi, e un pastorello c'era che modulava l'Italia, che è un altro, c'era un'azienda lì. Davide Calavanti che non aveva lo stesso Lausi con una sposata, adesso lui è divorziato e abita a casa da Cacero che c'è Santa Maria di Pisa con la Lancione. E poi a Ticibilio se non ricordo l'abita di Notore Battisti per Andrea Lausi e niente. Poi a Uri c'era Antonio da Barbaro che non trovava la Uri. E poi c'erano altri due compagni di ragazzi che modulavano da Ittiri, modulavano, che poi avevano staccato tutto. Non ricordo. come si chiama quella via lì, di fronte alla, come si chiama, la CGL. E mi ha detto, vedete, uno dice, non pronuncia un po' a parte, e dice, se vuole comprare la macchina come si deve, e tu c'è tagli di uno, e tu vabbè, già te lo faccio sapere, gli ho detto. Se ne trovo qualcosa che fa un'altra calare, gli ho detto, già te lo faccio sapere, perché vuole far rientrare. Go! dottore, mamma mia. E ma io c'ho la corchetta, te lo dico, di poliomatici dietro. E a quanto gli avrò mai sul coso? Sando gli aveva messo per la crisi. Figurati, Sando c'era, era andato a Barattino 5-6 anni fa, era rientrato. Poi non ho sparito, c'era la sua famiglia a casa sua, quando mi aveva letto lui, c'era ripiazzata, e poi è sparito. Se lo becco glielo dico di riagganciare. Sì, a venire dalle poche. C'è vero, oggi esce di Perfacco, come stavo ricordando, non era ricordo Perfacco. Di Perfacco ho visto un giorno, l'ho visto quando ero lì, è passato, qua sopra, è passata a casa di mamma, prendendo, stava prendendo tutti i fiori, stava prendendo. Poverino, non volevo prima le valli di Civile, adesso l'avevano sbattuto fuori perché aveva preso il posto di valle della caposegretaria, non so che cosa, e aveva fatto un documento a una persona e si è incazzata questa qua, l'hanno sbattuto fuori. Figurati, me la fine ha fatto. Io non l'ho più visto adesso, sono un po' di tempo che non lo vedo, comunque, se lo vedo già... Ti chiedo di cosa, me ne se sei con la colore baracchino. Dove sono, Giovanotti? 22:54. Sì, allora me ne vado a Nanna adesso. Non è che devo scendere in campagna a sistemare. Altrimenti ci sentiamo domani. Ciao Pierpa, ciao Gianni, ciao Capri 2. Già ci sentiamo domani sera. Ehi, ehi, Charlie, anche la parte del tempo che sta guidando.